Con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. Non so se vi ricordate, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa considerazione sulla quale abbiamo fatto un po' tutti un po' di ironia del deputato Bernini del Movimento 5 Stelle, risale a metà marzo di quest'anno. Cioè, rimane una cosa un po' stralunata, però non so se ci siamo un po' resi conto con questo scandalo del Datagate, cosiddetto Datagate, che arriva dagli Stati Uniti proprio in questi giorni, che forse, diciamo, un minimo di verità, di fondamento ci poteva anche essere in questa considerazione così bislacca, nel senso che avete sentito, non soltanto, sembra che ci sia stato un controllo a tappeto della popolazione americana su telefonate, su internet, social network, eccetera, ma anche sui DNA, sono state classificate DNA di milioni di persone. Quindi, insomma, mi era venuto in mente questo Bernini, che rimane un personaggio originale, però tutto sommato forse a volte davvero la realtà, come si dice, supera la fantasia. Comunque questo era uno dei fatti, delle cose di questa settimana. Naturalmente sono moltissime le notizie, voi sapete che con voi le commento ogni sabato dalle 14 alle 15 con il numero verde aperto per voi, con l'opinionista estemporaneo che vi presenterò tra pochissimo. I fatti sono moltissimi, potete sceglierli con libertà anche nelle vostre opinioni. Ovviamente il numero verde, ve lo ricordo dall'inizio, è 800 24 00 24. Numero verde, numero quindi gratuito, ma anche e soprattutto ecologico, perché vi dico sempre: evitate di disperdere nell'ambiente opinioni, pensieri, energie e tempo. Rendetevi conto, li convogliate tutti qui. Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. Quindi una, diciamo, delle tante notizie, così ve l'ho anticipata, con riandando a pescare Bernini sul Datagate, questo enorme scandalo degli Stati Uniti di raccolta dati in modo clandestino. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente i risultati delle elezioni amministrative, che ci dicono che gli italiani, insomma, sono molto volubili, variabili, ragionano volta per volta, non lo so. Comunque il centrosinistra si è preso tutti i capoluoghi e c'è stato un certo flop, anche se qualche ascoltatrice e ascoltatore si è un po' risentito sulla pagina Facebook, quindi non ci sono più le mezze stagioni, diciamo, flop del Movimento 5 Stelle e anche del PDL, del centrodestra, tra Lega e PDL per l'appunto, ne parleremo. Poi diciamo che forse le ripercussioni così un po' più tese ci sono state proprio all'interno del Movimento 5 Stelle, con anche questa senatrice Gambaro che dovrà essere posta sotto giudizio del Movimento 5 Stelle lunedì, che dovranno decidere se espellerla visto che avrebbe offeso Grillo. Lei l'aveva criticato dicendo: ma forse questo flop in parte è anche colpa sua, con questi toni sempre troppo catastrofici e aggressivi, e lei ritiene di essere offesa, stata lei stessa, dice Grillo si scusi. Insomma, però lunedì si vedrà quale sarà la sentenza. Poi Letta, da questi risultati delle amministrative, il Presidente del Consiglio deduce che il risultato rafforza le grandi intese. Gli risponde però Nichi Vendola di Sel, che dice: non scherziamo, stai guardando un altro film, oggi vince il centrosinistra alternativo alla destra. Vedete quanti punti di vista. Per quanto riguarda il governo e le sue azioni, oggi Consiglio dei Ministri con il decreto del fare, si chiama così, lo stanno esaminando, dovrebbero passare quindi dal pensiero all'azione, diciamo, anche se il ministro dell'economia Saccomanni, allora, all'inizio della settimana Saccomanni ha detto: manterremo, scusate, gli impegni su IMU e IVA. E due giorni fa ha detto: interventi su IMU e IVA valgono 8 miliardi, le risorse non sono rinvenibili, perché non ci sono i danè, non ci sono i soldi, non si può fare. Staremo a vedere come mai nell'arco di una settimana continuano a cambiare, e adesso ci sono PD e PDL che sono stretti un po' di più tra di loro per contrastare il ministro Saccomanni e dire: no, queste cose vanno mantenute. C'è stato il vertice sul lavoro a Roma, Banca Italia dice che il debito pubblico italiano è un nuovo record storico, 2.041 miliardi miliardi di euro. A 12 anni dal G8 di Genova c'è stata la sentenza definitiva sulle violenze a Bolzaneto. La caserma di Bolzaneto conferma 7 condanne, 4 soluzioni. In Groia intanto un magistrato, ex magistrato a Procura di Palermo, dice addio alla toga, punito, dice, per le mie inchieste. Poi ci sono anche le notizie dall'estero, abbiamo parlato del data gay degli Stati Uniti, la Grecia che ha chiuso la TV di Stato, ma forse adesso ci sono qualche aperture, la Turchia con le proteste sempre più incalzanti a piazza Taksim. E le elezioni presidenziali anche in Iran, che ci sono state ieri, queste potrebbero essere, anche se forse è una liturgia falsamente democratica, chissà che qualche piccolo accenno a un cambiamento non ci possa essere anche lì. E poi i Gay Pride, oggi c'è la grande manifestazione a Roma, ci sono anche in corso in altre parti d'Italia, compresa Palermo, dove ci sono la Presidente della Camera Boldrini e la Ministra delle Pari Opportunità Idem, che ha promesso che presenterà a breve un disegno di legge sulle unioni civili. Intanto però ci sono polemiche a Roma su Marino, nuovo sindaco che aveva tanto parlato di unioni civili, di gay, di libertà eccetera, però ha detto non posso questo sabato partecipare, sto con la famiglia. Bene, direi a questo punto però, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, raccontatevi un po' le notizie della settimana sinteticamente prima di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi, il nostro rito di sempre, perché anche questa settimana viene confermato che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Diciamo, parliamo di caffè. Parla di caffè, immediatamente viene in mente l'Italia, gli italiani e il caffè, no? Secondo voi, gli italiani nella classifica europea di quelli che consumano più caffè, sarebbe al primo posto, chi l'avrebbe, fino a ieri tutti avrebbero detto è al primissimo posto l'Italia, e invece no. Voi sapete chi c'è al primo posto in Europa? Tenetevi forte, qualcuno insomma avrà una certa irritazione. La Germania. La Germania è la prima consumatrice di caffè in Europa, l'Italia soltanto al sesto posto. Vedete che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Qualcosa che invece ci conferma che restano le mezze stagioni, cioè che le cose sono sempre quelle. Molti femminicidi anche questa settimana. Due li vedo stamattina, con un bidello che ha ucciso un insegnante, un 28enne a Scampia, a Napoli, ha ucciso la madre, picchiata a morte. Poi due giorni fa a Napoli, quella ragazza trovata in un sacco dell'immondizia in fin di vita, il suo aggressore ha confessato, tra l'altro l'ha massacrata davanti alla figlia di 4 anni, e poi anche una ragazza sgozzata in strada dall'ex compagno a Foligno, in Umbria. In Umbria, non lo so, ultimamente sembrava così una regione felice, ma se ne sentono molti anche lì. Nel decreto svuota carceri, fra le varie cose che il Consiglio dei Ministri dovrebbe valutare tra oggi e i prossimi giorni, ci dovrebbe essere anche una stretta sulle violenze contro le donne. Speriamo che sia il momento giusto, speriamo che sia il momento buono, perché davvero non è più tollerabile questa sequela senza fine ogni 2 giorni di donne uccise dai partner, ex partner. Io l'ho detto tante volte, se fosse il contrario, succedesse che ogni 2-3 giorni venisse ucciso un uomo in questo modo per mano femminile, credo che le cose già sarebbero state affrontate da molto tempo. Comunque, è tempo adesso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Tommaso Cerno. Buongiorno. Tommaso, ti eri leggermente distratto? No, perché dici? Mi diceva Benedetta Acri che ti stava chiamando in assistenza in regia. Sto facendo questo tour in Italia a presentare il mio libro e quindi ho dei momenti. È un inferno, un inferno questa presentazione. È un inferno. L'ultimo libro di Tommaso Cerno, ne avevamo parlato già mesi fa, Inferno, la commedia del potere, pubblicata da Rizzoli, dove aggiorna, diciamo, dopo parecchi anni l'opera, grande opera di Dante, però questo inferno che si trova sotto Montecitorio. Vi potete immaginare i personaggi che brulicano dentro l'inferno di Tommaso Cerno. Ma Tommaso, visto che sono stata proprio al secondo, al pelo, che mi dicevano Tommaso non risponde, adesso ti aggiusto io e ti chiedo di risolvermi questa equazione. Concentrati, Tommaso. Sì. Dunque, A elevato a X più B elevato a Y uguale C elevato a Z. Risolvi? Elevato a Z. A Z. Io che cosa devo fare? E tu devi risolvere questa equazione. Sembra un po' il PD. Il PD, sembra un po' il PD, un'incognita, no? Bersani elevato a leader, Lorenzi elevato a rompipalle, sì. Uguale vince Berlusconi e Beppe Grillo, elevato al fatto che neanche quando il centrodestra perde 7 milioni di voti l'equazione del centrosinistra è sufficiente. Una capacità di sintesi straordinaria. Guarda, non si può dire che Tommaso Cerno non sia un uomo di intelligenza, al di là che si possano condividere o no le sue opinioni, e di grande sintesi in poco. Questa equazione in realtà è la provocazione di un miliardario texano di Dallas, Andrew Beal, che ha offerto $1 milione a chi gli risolve questa congettura matematica. Lui è un appassionato di matematica, quindi io volevo darti questa occasione. $1 milione mi sembra abbastanza sfumato. Ma io sono fortunato in amore, con i giochi non riesco mai. Bene, poi parleremo anche d'amore allora, Va bene, Tommaso. Senti, invece, prima di lanciare tra pochissimi aggiornamenti per chi sta viaggiando, di cominciare a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24, per esempio vedo già Leonida da Vicenza. Quindi in questa sintesi che hai fatto ci sta un po' anche il tuo commento sul risultato di queste amministrative, Tommaso. Ma guarda, io ho un commento sulle risultate amministrative che non trova concorde nessuno dei politologi italiani, e questo mi conforta, perché poi sono gli stessi che avevano dato per morto Berlusconi, che adesso danno per morto Grillo e davano per vivo soltanto Bersani. Quindi basterebbe questa previsione per far capire che forse bisogna ribaltare proprio l'equazione texana quando si parla dell'Italia. No, trovo assolutamente normale ciò che è avvenuto, anche perché era già avvenuto a insaputa di tutti che Grillo, per esempio, si fermasse al 13% più o meno del consenso durante le elezioni amministrative. Era avvenuto nella stessa Lombardia che in contemporanea votava per le politiche, dove Grillo prese il 20 e qualcosa, e per le amministrative nello stesso giorno le stesse persone attribuirono a Grillo il 13%. Era avvenuto in Friuli Venezia Giulia alla fine di aprile, durante le elezioni regionali che hanno visto vincere il PD con Deborah Serracchiani, dove Grillo, che aveva preso il 27% alle elezioni politiche un mese e mezzo prima, prende il 13%. Nella città di Roma Grillo prende circa il 13%, cioè il fatto che un partito privo di qualunque preferenza e quindi che non spinge a votare nella logica amministrativa, e soprattutto che ha un'offerta politica che è quella del trust, dell'onestà, della ripulitura di questo Parlamento, che ha messo a simbolo lo Stato centrale di tutta la sua, diciamo, aggressione a un potere, secondo Grillo, corrotto, non è un'offerta politica compatibile che va bene con l'elezione amministrativa. Ma soprattutto tu vedi che in Italia votano effettivamente due modelli di elettore. Quello che vota sempre, che vota sia alle amministrative sia alle politiche, che quindi è un elettore più legato alla prassi democratica espressa dentro le urne e meno a quella urlata nel bar piuttosto che in televisione o dove la si vuole urlare. Poi c'è un'altra parte che vota soltanto alle elezioni politiche, che è la differenza di adesione rispetto all'astensione. Chi vota solo alle politiche, sostanzialmente abbiamo capito che vota per Grillo e per Berlusconi. Qualcuno avrebbe votato per Renzi, ma non gli hanno dato la possibilità. Chi invece vota sempre, vota in una dinamica dove il PD è un partito effettivamente molto forte. Quindi noi in Italia abbiamo tre poli, uno dei quali molto forte a parlare con questa prima parte dell'Italia, quella che vota sempre, che è il Partito Democratico, ma con incapacità o difficoltà enormi a parlare con l'altra Italia, quella che vota soltanto quando la muove lo stomaco, la muove una rabbia, la muove una voglia di vendetta, anche legittima. E altri due partiti, che sono due partiti che vengono definiti antipolitici, perché anche Berlusconi era antipolitico all'inizio, diventato poi politico, e Grillo, e che invece sono molto politici, che parlano meglio con quella seconda Italia. Poi c'è Quando votano tutti, il PD rischia di perdere o perde. Quando vota solo una parte, il PD è prevalente. Quindi gli conviene che voti solo una parte. Allora gli conviene... Allora o riescono a convincere gli italiani a votare tutti come quella parte e quindi affrontano il tema politico di una leadership capace anche di parlare con l'Italia, che non ha tutta questa attenzione alla politologia e all'amministrazione del paese, ma ha attenzione a dei temi forti che non saranno elaborati, che non saranno la soluzione, ma che sono legittimi nell'espressione democratica, dove io voto per mille motivi, e questo è il tema politico del PD. Il tema politico di Grillo è se riesce a convincere chi ragiona che lui è in grado anche di costruire, e infatti, come vedi, la crisi del movimento nasce proprio su questo tema. Di questa crisi ne parliamo tra pochissimo, Tommaso. Direi di cominciare a sentire anche le vostre opinioni al numero verde 800 24 00 24, per esempio Leonida da Vicenza. Oh sì, buongiorno. Buongiorno Leonida. Niente, stavo ascoltando cosa diceva il suo ospite. Sì. Effettivamente, secondo me, il problema grosso non è stato chi ha vinto, ma quanto hanno perso tutti, nel senso che quel 48% di astensione, secondo me, sta dividendo l'Italia in due parti. Chi pensa che ci possa essere ancora una soluzione politica e chi non ci crede più, di fondo. Grillo, secondo me, Grillo è un partito da 15%. Lo pensava anche lui prima di vincere le nazionali e non si aspettava niente di più. Non può dare soluzioni amministrative pratiche più di tanto, lo sa anche lui, quindi non si è lamentato più di tanto e anzi ha zittito chi si aspettava risultati più grandi, io la vedo così. E il problema un altro è capire se la gente tornerà a fidarsi nella politica e in soluzioni reali per l'Italia. Penso non ci sia tanto altro da dire, insomma. Dimmi solo una cosa, Leonida, visto che sei in Veneto, che ne pensi della sconfitta di Gentilini a Treviso? Beh, diretto riflesso della sconfitta della Lega in generale. C'è stato un momento in cui la gente non ha più creduto in quello che diceva la Lega, l'ha vista un semplice partito politico, punto e basta, e non un partito per soluzioni reali. Grazie Leonida. Grazie. A proposito di soluzioni reali, Tommaso Cerno, no? Tu dicevi per come si muove il Movimento 5 Stelle, Grillo ha più appeal a livello nazionale su quella che è appunto la politica nazionale, Roma, i palazzi. Soprattutto il concetto di stomaco, cioè colpisce un paese frustrato in uno stato di minorità a cui che non chiede più alla politica la rappresentanza di interessi o di ideali, ma chiede guarigione. Ecco, però questa vede in Grillo una specie di santone, di taumaturgo. Sì, infatti, questo così è sì. Una cosa che la politica spesso fa. Kennedy era Kennedy prima di diventarlo sul piano di ciò che faceva. Cioè ci sono delle idealità della politica che valgono più della realtà. Questa realtà, quando è fredda, ce l'ha dimostrato Monti, anche se elaborata da dei geni di professori, fa delle sciocchezze immani. La politica è anche sogno, è anche convincere tutte le persone che domani si può stare. Siamo d'accordo, Tommaso, siamo d'accordo, però a un certo punto si deve arrivare all'azione. Cioè il rischio di Grillo, che ha avuto comunque un ruolo fondamentale. Sì, ma fa opposizione, sì, però. Ma ragazzi, adesso, però c'è una contraddizione fondamentale che va sottolineata. Cioè, questi accusano Grillo di voler fare il dittatore e poi di non fare niente. La democrazia si manifesta più con l'opposizione che con la maggioranza. Sì, ma non questa puoi chiedere a Grillo di fare le proposte che non chiedi neanche al governo di fare. Sì, ma è il governo che governa, è la maggioranza che propone. Ma Tommaso, ma può essere giusto? Si fa opposizione. Tommaso, ma può essere giusto, per esempio, questa messa sotto accusa della senatrice Gambaro, che può essere simpatica o non simpatica, eccetera, ma può uno non poter neanche dire, ma insomma, secondo me ha fatto male a dire così, a far no, così ma Grillo. È un tema, questa è una lettura, questa è la lettura fatta con gli occhi della politica italiana di una volta. Il problema non è quello che ha detto la senatrice Gambaro, di cui non frega niente neanche i suoi parenti. Il problema è però che Grillo il Movimento 5 Stelle si basa su un concetto che è noi contro loro. Quindi se qualcuno di noi diventa come loro, crea un danno, un virus, un contagio dentro questa proposta politica che è molto più forte di quello che può dire la senatrice. Ma guarda che la cultura del dissenso, ogni partito la gestisce a modo suo. Sì, non sì, credere sì, che nel questo, PD no, si possa dissentire. Guarda certo. Renzi quanto sta pagando per avere dissentito. Nel PDL chi dissente non viene messo in lista. Quindi ognuno censura il dissenso come crede. Grillo lo censura in maniera manifesta, come l'ha censurato Bossi mille volte. L'ascoltatore di Vicenza, che ha detto delle cose molto intelligenti, sa benissimo che la Lega non cacciò la senatrice sconosciuta, cacciò Comencini quando era segretario della Lega Veneta, che era la seconda Lega più potente d'Italia. Nel momento di massimo entusiasmo del popolo leghista lo mandò via e la Lega aumentò i voti. Perché non è la senatrice Gambaro che porta voti a Grillo, ma è l'idea di un'alternativa ideale a cui una parte dell'Italia vuole attingere, che poi tu puoi considerare sbagliata, ma devi cambiare l'altra politica per ridurre la sua potenza. Senti, facciamo non così. Devi contestarlo e costringerlo a comportarsi come avrebbe fatto D'Alema. Mm. D'Alema non è Grillo e fa cose diverse. Ma infatti poi sentiamo invece, visto che hai citato Renzi, cosa dice D'Alema su Renzi, che si è un po' ricreduto. Ma prima volevo dare un po' spazio, prima di Giovanni da Milano, Mariella da Trieste, sempre al numero verde 800 24 00 24, anche alcune considerazioni relative a Grillo e a questo risultato non lusinghiero delle amministrative sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio Barbara scrive: i senatori e i deputati non dovrebbero parlare con i giornalisti di situazioni interne al movimento. Se la senatrice Gambaro fosse stata persona corretta avrebbe parlato con Grillo e non sarebbe andata in TV. Poi Maurizio scrive: due sindaci ci sono del Movimento 5 Stelle, che uno a Pomezia, l'altro mi ricordo in Sardegna, non mi ricordo il nome del paese, quindi insomma, possiamo essere contenti. Adriano: lui, Grillo, è responsabile in quanto l'idea di una forma movimento costruito in questo modo è sua, ma il movimento è lui, quindi senza di lui non c'è il movimento. Però non so quanto possa essere corretto parlare di flop, dice Adriano, i dati andrebbero confrontati fra elezioni simili. Maria Rosaria scrive: non è Grillo il problema, mi spiace per voi. Barbara: il flop, scrive, purtroppo è per tutti gli italiani. Secondo Stefano: purtroppo dietro la protesta c'è stato il vuoto e ora ne pagano le conseguenze. Adriano scrive: io insisto, il problema del vuoto può essere marginale, il Movimento 5 Stelle ha fatto il pieno alle politiche, in elezione analoga si potrà confrontare il dato. Leggiamone ancora qualcuno, per esempio Vela dice: nessuno pensa che possa esserci un po' di delusione per la scelta di Grillo di isolare il movimento, inoltre sembra che i grillini non siano considerati granché come amministratori, forse questo è un po' presto per dirlo. Comunque Raffaele: certo che è Grillo il problema, un comico arrogante che ha solo sfruttato il malcontento degli italiani ed è solo capace di urlare, ma il problema più grosso è l'ignoranza degli italiani, popolo ingovernabile. Leggiamo ancora Laura: parlare di Grillo deprimente, il vuoto assoluto che ha cavalcato il malcontento e l'odio sociale. Angelo: quanto c'è da parlare di Grillo, giornali, giornalisti, radio TV rosicano perché non si presta le loro interviste, i loro talk show. E poi Merio: meglio aspettare i grillini, meglio aspettare per aggiudicare, i grillini non fanno favori ad persona, non rubano clientele, parentopoli, sono molto radicate nei territori. Ecco, questo giusto per darti un'idea così di massima, Tommaso. Sono tre punti molto belli, altri che condivido meno, ma che ti fanno capire che la gente capisce più dei grandi intenditori di politica. Perché il tema è proprio questo: l'offerta politica non è fatta soltanto di comportamenti che prevedibili, è fatta anche di rotture. Ogni linguaggio politico nuovo, quando Berlusconi scese in politica, lo guardavi come un alieno, tutti pensavano che scherzasse. Poi la politica deviante diventa accademia e tu ne devi fare un'altra. Grillo è l'unico vero dissidente del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle si basa sul principio di fondo che uno vale uno, mentre Grillo vale mille. Siccome Grillo sa che vale mille, cosa fa? Cerca di mandare via quelli che vogliono valere due, perché è peggio uno che vale due di uno che vale mille in un movimento come quello. Detto questo, sì, metà degli elettori di Beppe Grillo non ha neanche il computer a casa. Cioè non è vero, non è identificabile questo movimento della rete con la vera base di Beppe Grillo. Grillo è un leader, e infatti gli altri movimenti nati in rete non hanno un leader così riconoscibile, che dà la carne e interpreta la rabbia di una parte del popolo che non è quello della rete. Quindi è normale che entri in conflitto con la parte anomala del suo movimento, che per assurdo è quella della rete. E va interpretato nel suo insieme, non puoi scomporlo. Non può andarti bene solo quando parla come vogliono i partiti. Se i partiti lo vogliono sconfiggere, però un po' di capirlo. Sì, Tommaso, però un po' di malcontento sembra che ci sia all'interno del Movimento 5 Stelle, una trentina che se ne vogliono andare. Poi Nuti parla di compravendita. Ma per ogni gambero che va via, chissà quanti ne entrano, noi questo non lo possiamo valutare. Certamente dentro Grillo ci sono anche degli elettori che hanno votato lui, convinti di fare un governo, convinti di fare qualcosa, che vengano da esperienze della sinistra, pensa allo stesso Rodotà, e che sono delusi. Quindi Grillo ha dei delusi, ma non è che questi delusi sono figli del suo comportamento, sono delusi perché hanno sbagliato ad andarlo a votare, nel senso che non erano parte di quel tipo di politica lì, si sono illusi che lo fosse, dovevano votare un'altra cosa, ma siccome l'offerta politica non era sufficiente, hanno votato Grillo e quelli sono i delusi, come se io voto Berlusconi e poi mi pento, non Beh, è che sia colpa sarebbe tua. Interessante, adesso immaginiamo che le elezioni non siano vicinissime, poi è una cosa imprevedibile, questa capiremo più in là, mi preme la curiosità di vedere che cosa uscirebbe da eventuali elezioni politiche. Ma abbiamo Giovanni, no perdon, prima Mariella da Trieste. Mariella, buongiorno. Buongiorno Mariella. Buona estate, ciao. Grazie, Berta. Grazie, ciao Mariella. Buona estate a te che finalmente è arrivata. Allora, volevo da voi dei commenti su due fatti. Prima di tutto il fatto del Viminale, dove il vice prefetto e altri suoi compagnucci, chiamiamoli così, hanno fregato, mi scusi il termine molto brutto, no, 10 milioni di euro. La motta, mi sembra, sì. Voglio dire, possibile mai che dentro il Viminale possano succedere queste cose senza che nessuno abbia il potere di controllare? Hai queste sono delle ragione. Cose insopportabili per noi cittadini. Io penso che sia proprio un insulto a noi. Questa è la prima. Poi naturalmente c'è una seconda cosa che io ho letto su diversi giornali questa settimana, che la Valtour, lei sa benissimo, no, di che cosa parlo, sì, ecco, ha lasciato un debito di 300 milioni di euro, perché mi sembra che sia fallita, è proprio fallita. Sì. Nel contempo che loro stavano operando sul settore turistico, hanno regalato a degli politici, altri esponenti del PDL vacanze da sogno alle Maldive, a Sharm el Sheikh. Ma io mi domando, questi personaggi che sono al governo, tra l'altro, parlo di questi. Sì, Alfano smentiva PDL, ieri, non mi sembra, dice a me nessuno di pagarsi le vacanze come i comuni cittadini, punto di domanda. Mariella, i tuoi punti di domanda sono, direi, inquietanti, perché sono molto fondati. Io tra l'altro leggevo sempre questa settimana che diversi personaggi importanti, tra cui anche Cassano, si sono fatti levare le multe sulle auto, non so se a Roma o in quale città, anche lì dico stramiliardari, ma non lo facciamo noi, non siamo neanche in potere di farlo. Ma com'è possibile che una multa, ti devi fare anche levare una multa? Ci sono molte vostre telefonate, continuano ad arrivare all'800 24 00 24. Allora vorrei sentire, mi sembra che ci sia Giovanni, ecco, Giovanni da Milano. Giovanni, pronto? Giovanni, salve, innanzitutto complimenti per la trasmissione, molto interessante. Grazie, se lo dici mi fido. Grazie. Io all'inizio volevo intervenire sul femminicidio, ma visto che si sta parlando di Grillo, vorrei dare la mia opinione sul fenomeno Grillo. Vediamo. Beh, però se poi sarebbe interessante anche quello che volevi dire sul femminicidio, immagino, penso. Che cosa volevi dire? Beh, no, volevo solo dire che forse, diciamo così, per scaramanzia sarebbe il caso di smettere di parlarne, visto che più ne parlate, più il numero di casi aumenta, ed è una cosa spaventosa. Io poi capisco la vostra battaglia anche di voi donne sull'argomento, ma ecco, anche se spero Giovanni che non sia solo una battaglia delle donne, se no è già persa dall'inizio, visto che ci sono coinvolti gli uomini e nella parte peggiore. Tutti, una battaglia di tutti, però invece su Grillo, che forse è più interessante, volevo dire che secondo me il centro, diciamo così, del grillismo è il fatto di voler ribaltare tutto, cioè mettere la massaia presidente della commissione di vigilanza RAI, piuttosto che lo spazzino deve diventare ministro, ecco. E questa è una cosa che secondo me è pericolosissima, perché ad esempio io mi occupo di ricerca scientifica e nell'ultimo periodo si è visto che l'opinione pubblica spesso viene condizionata, viene influenzata in maniera anche secondo me sbagliata dai media, ad esempio il servizio delle Iene su Stalin, piuttosto che la campagna della Brambilla contro la sperimentazione animale, tutte cose che toccano la gente molto da vicino senza che forse la gente se ne renda conto, e poi in realtà sono queste cose, diciamo così, portate avanti da opinionisti dell'ultima ora. Mi spiace essere così, diciamo, caustico, ma a condizionare poi quello che pensa la gente di cose che spetterebbero principalmente agli scienziati stabilire. Poi è chiaro che l'opinione pubblica deve avere un suo, diciamo, beh, così, certo, almeno il diritto d'opinione, ma anche di chi rappresenta una corrente di pensiero oppure delle convinzioni, dei convincimenti. Giovanni, ti ringrazio, comincio a chiedervi sintesi anche a te, Tommaso Cerno, perdonami, per rispondere sinteticamente, perché poi abbiamo un collegamento con Marte. Peter Brescapè ha detto che è quasi pronto col satellitare, col collegamento. Questi due spunti di Giovanni, brevemente, Tommaso. Allora, il femminicidio è un problema che mi pongo molto, ci poniamo molti come giornalisti, cioè ne parliamo e si ha paura dell'effetto emulazione, no? Più ne parli, allora altri si mettono in testa di fare la stessa cosa, però se non ne parli non dà informazione, non sì, dà no, il senso delle proporzioni punto, anche. In questo paese, il problema non è, in questo paese si parla senza parlare, questo è il problema, si parla con la retorica, col politicamente corretto. Allora noi siamo in un paese dove continuiamo a chiamare delitto passionale No, io non lo faccio più da tempo. Vabbè, ho capito, certo. Ma glielo fanno i giudici. Sì, sì, sì. L'assassinio è brutale di un uomo che considera la donna sua proprietà. Noi lo chiamiamo passionale. Tu mi devi spiegare cosa c'è di passionale. No, hai ragione, hai ragione. Allora, qual è cosa succede? Che una persona apparentemente di buon senso come Giovanni ti dice non dovete parlarne perché sennò aumentano. Ma come non dovete parlarne? Dovete cominciare, non se ne sta parlando. Perché noi diamo a queste letture pubbliche di questi fatti connotazioni e parole politicamente corrette anche quando li accusiamo, anche quando li condanniamo. La brutalità che sta dentro all'idea del possesso, per cui qualcuno crede di poter possedere la vita di un altro, e la donna è la più colpita, è un fatto culturale, sì, che sì. È figlio di un paese che ha rovinato le teste fin dalla scuola elementare dei bambini, inventandosi un'Italia dove c'è una gerarchia di potere che rispecchia la famiglia medievale. E da questo discendono tutti i problemi di arretratezza dell'Italia, compresa la ricerca non finanziata, che non è colpa del ministro Spazzino, che non esiste e comunque ruberebbe meno di molti ministri dell'università e dell'istruzione, con tante lauree più di lui che ci sono stati, ma proprio figlia di questa cultura, perché solo un paese ignorante non finanzia la ricerca, non c'è bisogno che vadano loro a governare per capirlo. E con questo... Ma un paese che chiama passionale l'uccisione di una donna non può che non finanziare la ricerca. Sono d'accordo, c'è un filo conduttore che senza soluzione di continuità. Tommaso, adesso abbiamo il collegamento con Marta e poi sentiremo Renata da Roma, Giorgio da Bologna, tutte le vostre telefonate all'800 24 00 24. Riflessioni da Marte. Quante innumerevoli cose da fare ci sono sul pianeta italico, almeno così si deduce, da quassù da Marte, puntando dritto dritto il telescopio verso lo stivale. E in effetti proprio oggi il Consiglio dei Ministri esamina un decreto che, guarda tu la coincidenza, si chiama proprio Decreto del Fare. C'è da fare, c'è da fare. Da far andare avanti la baracca, aggiustare qualche cosa che si spacca. Eh sì, c'è sempre qualcosa che si spacca in effetti, ma avranno mica davvero intenzione serie con questo decreto del fare? Ma va detto, in tutto l'arco costituzionale tutti si danno un gran da fare in vari ambiti. Due esponenti dai cognomi mutuati dalla flora, per esempio, Biancofiore e Fico, una del PDL e l'altro del Movimento 5 Stelle, propongono i loro rispettivi super leader dalla poltrona in pelle umana. Come umano lei, pretoriano, molto umano, ciao. Propongono, dicevo, rispettivamente, propongono Berlusconi e Grillo all'UNESCO come ciascuno patrimonio dell'umanità. E perché allora non come il più grande spettacolo dopo il Big Bang? Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il. Per un prossimo leader invece, Renzi da Firenze, che a sua volta si dà un grande affare, anche se pare che sia il sindaco meno presente in consiglio comunale rispetto agli altri sindaci delle grandi città, per lui si diceva qualcun altro si sta dando da fare, ma per disagevolare, diciamo così, la sua ascesa. E la corrente che lo ostacola, no, non è quella ascensionale, è quella cosiddetta del cinghiale. Detta del cinghiale perché i tramatori in questi giorni si sono riuniti a cospirare in un ristorante trangugiando abbondanti porzioni di cinghiale. Appunto, questo voleva dire. Ma a dire la verità, non è soltanto l'italico stivale che fibrilla di frenetica attività. No, vi sono anche altri paesi che non dormono e pensano e ragionano e lucubrano giorno e notte. Fra questi c'è il Giappone, che dopo i disastri inenarrabili di Fukushima, dopo una capillare devastante contaminazione radioattiva per terra e moltissimo per mare, che chissà mai se si potrà risolvere, dopo aver chiuso ufficialmente con le centrali nucleari, seguito il Giappone in questa decisione da tanti paesi anche in Europa, compresa l'Italia, che fa il Giappone? Ci ripensa e decide solennemente, con la solennità tipica giapponese, che il nucleare va ripreso, poiché, sostiene il primo ministro nipponico Shinzo Abe, l'atomo resta strategico. Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta. A te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. E va, situazione pum, con un peso con i piedi per terra, qui sulla terra. Tommaso Cerno, prima di sentire Renata, Giorgio e gli altri al numero verde, ti volevo chiedere, a proposito, stavamo dicendo di un paese arretrato, culturalmente arretrato. Allora, da una parte il Gay Pride di questi giorni, io sono molto contenta che la Presidente della Camera Boldrini, la Ministra delle Pari Opportunità, Josefa Idem, ci volevano due donne, sono andate alle manifestazioni, mentre un po' delusa da Marino, ma non perché per forza un sindaco, se nella sua città c'è il Gay Pride, deve partecipare, ma perché Marino da sempre si è espresso a favore delle unioni gay, delle unioni civili in genere, dei diritti uguali per tutti, e invece pare che tenga famiglia e non possa partecipare. Speriamo che l'impegno familiare fosse andare con la famiglia al Gay Pride, vediamo se è un quarto d'ora, se invece è un altro. No, non va al Gay Pride, dice che sta a casa con la famiglia. Sì, però, dico, speriamo che l'impegno familiare sia andare con la famiglia al Gay Pride, che si sia ravveduto in queste ore e si presenti lì. Detto questo, è uno smacco doppio per la comunità gay, perché erano convinti di cacciare Alemanno per avere un sindaco che partecipava alla manifestazione come primo atto, e non lo fa, ha detto che non lo intende fare, e poi l'ha fatto nel nome di una famiglia che loro non hanno, per cui l'ha fatto proprio alla faccia del diritto che chiedono, quindi con un cinismo che solo un medico può avere, e lì emerge il lato chirurgico di Marino, quello di un medico che quindi ha cinismo come il medico di fronte a un fatto, e quindi ti dice: non vengo da te, io che ho famiglia la posso avere, stai tu senza che non te la danno. Non c'è molta simpatia, sento in sottofondo, verso i medici, verso i chirurghi. È vero che tanti dovrebbero fare scuola di umanità, non tutti. I medici, quando si occupano delle loro cose, hanno un giusto cinismo, ti dicono che devi morire con la stessa faccia con cui ti dicono andiamo a pranzo. Ecco, lui l'ha detto nello stesso modo, perché non soltanto ha detto che non andava, ma ha detto che non andava perché lui tiene famiglia, e loro invece stanno chiedendo di poterne tenere una. Senti, restando, hai ragione, sullo stesso argomento, Tommaso, sai che dal Cile alcuni media hanno detto che il Papa ha parlato, andando in Cile, di una lobby gay all'interno del Vaticano. Ora io mi chiedo, spesso l'ho detto anche negli anni passati, quando si parla di prelati gay, eccetera, eccetera, secondo me non ha senso, perché non dovendo praticare, almeno secondo le regole della Chiesa Cattolica, che siano gay, regola, che siano etero, che siano bisex, non ha nessuna importanza. Perché è inutile dire la lobby gay, lobby di cardinali, che cosa significa gay se non pratica? Allora praticano, allora anche dunque, io allora intanto bisognerebbe chiamarla lobby anti-gay, no? Perché ovviamente, perché mi pare che non facciano nulla per i gay, sennò sarebbe un gruppo di pressione che vuole arrivare a certi diritti, sì. Ma nel senso che l'omosessualità praticata nella Chiesa diventa oggetto di ricatto, non perché fanno sesso con un uomo, che c'è chi ne fa di più e meglio di loro, ma non fa parte di nessuna lobby, per esempio io, ma perché l'idea che hanno del sesso è talmente antica e lugubre e negativa che possono ricattare quelli con cui vanno. Se io vado con uno, non lo ricatto perché non ho niente da dire, cioè ci siamo andati, basta. Quindi anche lì una questione di come vedono il sesso, non della lobby potente che sembra quasi che sia colpa dell'omosessuale se il sacerdote utilizza il sesso che fa lui per ricattare quello con cui l'ha fatto. Ed è tutto il meccanismo di potere che si costruisce su questa idea ignorante della passione anche peccaminosa che tu confessi, perché poi la maggioranza dei preti fa voto di celibato, non di castità, alcuni ordini monastici fanno voto di castità, che diventa il motivo di un ricatto, quindi, e dai la colpa ai gay, come se i preti rappresentassero gay in questo senso, magari li rappresentassero, avremmo avuto dei grandissimi esponenti in una comunità che invece non ha ottenuto nulla. Quindi è un problema di cambiare il concetto di sessualità anche dentro la Chiesa Cattolica, per cui tu, se vuoi andare a letto con un uomo, poi ne parli col tuo vescovo, ti confessi, fai tutte le pratiche, ma non ricatti nessuno, perché non c'è motivo per ricattare nell'atto in sé. Se poi tu hai un problema col tuo Dio, ti confessi e ti perdonano, perché poi anche questo va detto, che ti perdonano, quindi non si capisce il ricatto di che. Renata da Roma, grazie della pazienza. Renata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo dire qualche cosa per quanto riguarda i dissidenti del Movimento 5 Stelle, sì, e in particolare questa senatrice Gambaro. Io vorrei dire loro che si dovrebbero vergognare, anzi si devono vergognare, perché se occupano quel posto che occupano è solo merito di Grillo, del tour massacrante che ha portato avanti, del mettersi in gioco in tutto e per tutto, totalmente. Adesso lasciamo stare come uno vuole considerare questa persona. Comunque io mi domando, e vorrei domandare loro, per quale motivo non gli hanno parlato personalmente? Perché hanno pubblicizzato tanto la cosa, andando a finire dritti nelle fauci dei giornalisti che non aspettano altro? No, a me questa è una cosa eticamente che mi è parsa sinceramente ripugnante. Chiarissima, Renata, chiarissima, e corrisponde anche a varie posizioni espresse sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Giorgio da Bologna invece? Salve, niente, io volevo parlare del fatto delle dimissioni delle parlamentari delle 5 Stelle, no? Che si sono dimesse, no? Due che sono andati al gruppo misto. Ma ne verranno anche delle altre. Io non credo alle palle ideologiche, perché il movimento, perché Grillo, non Grillo. Parliamoci chiaro, questi qui si dimettono per il semplice motivo, va bene, che da zero hanno cominciato a assaporare i soldini, vedono i cosiddetti 200.000 euro dei loro colleghi, va bene, e questi, il movimento si spacca per questo. Io li ho passati il movimento del 77, così, tutti i vari rivoluzionari, che sai, spaccavano il mondo. Dici, poi alla si imborghesiscono. Ho capito. Tiravano lì, il posticino, la grana, il resto chiacchiere. Grazie Giorgio, grazie. E adesso ammiriamo invece questo nostro appuntamento, come sempre, con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale, a proposito di lobby gay, chiederei lobby, la parola lobby, Valeria. Lobby, sì, parola sempre di grande attualità. Allora, intanto dobbiamo partire da un'antica parola, da una parola latina. La parola era laubia, che significava loggia, corridoio, ma da qui la parola è passata direttamente all'inglese, lingua nella quale lobby ha preso il significato di passaggio coperto in un monastero. E da qui, sempre nella lingua inglese, all'inizio del secolo scorso, la parola è slittata a un altro significato, cioè per indicare il salone principale all'interno delle banche, quindi il luogo nel quale si svolgono le operazioni principali per il pubblico. E da qui il passo è stato poi breve, per passare a indicare un gruppo di persone che tende a influenzare le scelte dei politici, soprattutto in materia economica e finanziaria. Ora però la parola in questi giorni, come sappiamo, è stata di grande attualità perché il Papa se l'ha pronunciata, ancora non si è capito se davvero ha usato quell'espressione, in ogni caso l'ha usata col senso di gruppo ristretto di potere, un gruppo ristretto costituito da persone che hanno tutte le stesse caratteristiche, quella di essere gay. Insomma, per concludere, come sempre la parola era partita con un significato che aveva a che fare con i monasteri ed è arrivata addirittura in Vaticano. Beh, almeno la parola non si può dire che non abbia fatto strada. Un bel giro. Grazie Valeria Della Valle. Prego, arrivederci. Ciao Valeria. Rieccoci qui adesso con adesso vediamo se riusciamo a passare ancora qualche telefonata, ma a proposito di lobby, vedevo anche una notizia, mi pare di averla vista su Repubblica, che negli Stati Uniti, sapete che poi della lobby potentissima delle armi negli Stati Uniti Obama voleva contrastarla, non se ne è fatto più nulla. Leggevo che tra i maggiori assassini ci sono i bambini, perché si ritrovano con queste armi in casa. Mi viene in mente la più grande delle mie sorelle, che in questi giorni, anche lei evidentemente si vuole armare, ha detto che comprerà una pistola spara biscotti. Ti risulta che esista, Tommaso? Cioè, una pistola spara biscotti? Non ho sentito l'ultimo pezzo della domanda. Dicevo, ho sentito mia sorella in questi giorni, sì. La più grande, e diceva che vuole comprarsi anche lei un'arma, una pistola spara biscotti. Ah. Esiste questa pistola, che tu sappia? Esiste pistole che sparano biscotti. Avrà visto una di quelle trasmissioni di cucina che ormai sono ovunque, poi glielo chiederò meglio perché era attraverso un messaggio. Io non so se esistono, non cucino, non ho mai cucinato nulla, però penso che possano essere degli strumenti interessanti anche della cucina. Bello sarebbe avere le pistole spara biscotti per tutti. Senti, volevo chiederti, adesso abbiamo pochissimi minuti, se riesci, sì, proprio in un flash, per esempio a commentare questa volontà di ritorno a Forza Italia di Berlusconi, che sta proponendo, vorrebbe un renziano, dice, nel senso una figura tipo Marchinio. È un'idea antica che ha Berlusconi, che l'Espresso tra l'altro un anno e mezzo fa aveva anticipato raccontando un piano segreto di Forza Italia che era stato deriso da quelli di Forza Italia, che poi si è avverato punto per punto, che vedeva dentro anche l'idea, l'ammirazione che poi divenne il bacio della morte di Berlusconi verso Renzi. Berlusconi ha capito che il Popolo della Libertà, che era un meccanismo che doveva mettere insieme tutto il centrodestra sotto il suo potere, non ha più appeal, perché ci sono troppi distinguo rispetto a quella che può essere l'origine non tanto Forza Italia quanto del momento in cui Berlusconi sembrava qualcuno credibile, sembrava poter cambiare l'Italia. Quindi è convinto che ripristinare quel nome riporti un po' di quel clima, che anche se lui è più vecchio, più stanco, pieno di processi, pieno di contraddizioni, ha governato per 10 anni l'Italia senza portarla da nessuna parte, ridia l'illusione a una parte dell'elettorato del centrodestra che torna quella destra lì, quello che nel 94 diede l'impressione di poter cambiare il paese. Quindi senti, è un fatto non nostalgico, ma strategico e di marketing. Beh sì, questo è chiaro. Senti, invece che Renzi, D'Alema, se erano rottamati a Vicenza, anzi Renzi vuole rottamare D'Alema, D'Alema gliene aveva detto di tutti i colori, adesso ha detto giorni fa, a 8:30, ora è un grande leader politico, ha detto D'Alema di Renzi, e ottimo comunicatore, se si coltiva un po', insomma, ce la può fare. Proprio in un flash, diciamo, mentre stiamo chiudendo... D'Alema si è ravveduto e probabilmente ha detto la cosa più intelligente degli ultimi anni, che se l'avesse detta a Bersani invece che dirla adesso, probabilmente l'Italia oggi non sarebbe governata dalla destra con il premier di sinistra, ma sarebbe governata dalla sinistra con alcuni voti della destra. Dimmi una cosa, all'inizio hai detto che sei fortunato in amore, c'è lì il tuo fidanzato per caso, la presentazione non del libro Inferno? No, oggi no, oggi mi segue sempre, ma oggi non c'è, lo raggiungerò però domani. A volte gli impegni. Bene, allora domani. Buona domenica, Tommaso Cerno, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.